Radio 24 Reportage. Più impresa nella cultura. La rivoluzione dei musei italiani di Alessandra Schefisi. Valorizzare il nostro patrimonio culturale, questa è la chiave per rilanciare l'economia e farlo attraverso un legame sempre più stretto tra arte, cultura e imprese. Ne sono convinti imprenditori, ma anche direttori dei musei, esperti del settore, e qualcosa si sta muovendo. Si torna a investire in turismo e cultura nel nostro paese anche grazie ad alcuni strumenti come l'art bonus e la detrazione fiscale per le imprese, mentre comincia a rompersi il tabù della contrapposizione ideologica pubblico-privato, cultura e impresa. Un passo in avanti certamente è stato compiuto con la riforma da poco completata, in base alla quale i musei non sono più semplici uffici delle soprintendenze, ma organismi dotati di uno statuto, un bilancio, un consiglio di amministrazione e guidati da un direttore con molta più autonomia, selezionato attraverso una procedura internazionale, un meccanismo che ha fatto sì che ben 70 su 20 direttori chiamati a guidare i 20 super musei del patrimonio pubblico italiano siano stranieri, percentuale che ha fatto storcere però il naso a chi avrebbe voluto una presenza maggiore di italiani, polemiche che si sono concentrate soprattutto sulla nomina del tedesco Heike Schmidt, 47 anni, a direttore del più famoso museo italiano, gli Uffizi, e che si è insediato a novembre. Ma lui tira dritto e spiega le sue priorità. La sfida più grande ovviamente di implementare questa riforma in una maniera migliore, quindi tenendo conto appunto della grandissima traduzione degli Uffizi. Sicuramente di una cosa non hanno bisogno, di cui quasi tutti gli altri musei nel mondo hanno bisogno, di fare le pubblicità per attirare i visitatori. Questo ce l'hanno già, quindi la situazione è proprio la posta di quelli che troviamo nella maggioranza degli altri musei. Una cosa che ho sempre detto immediatamente anche dopo la mia nomina era il fatto che abbiamo troppo lunghe file, quindi questo, l'esperienza del visitatore è una cosa chiave, cioè non si può iniziare una visita magari facendo la fila per 2-3 ore, quindi bisogna, e poi anche dentro ci sono delle possibilità per migliorare. Gabriel Zuchtreigel è il nuovo direttore del Parco Archeologico di Paestum, il più giovane tra gli stranieri. Sentiamo quali sono le sue priorità e come la riforma, a suo dire, rende più facile il lavoro dei direttori. Lavorare sull'immagine, ovviamente partendo dai templi, però poi raccontando tutto quello che c'è intorno ai templi. Lavorando sull'internet, sul sito web, sui social, vedere cosa possiamo fare in questa direzione, cambiare il museo, il percorso, fare più offerte per esempio per bambini, per scuole, comunicare in una maniera insomma più adeguata allo stato di partenza. Fare in maniera tale che diventa un posto veramente dove è gradevole soggiornare, restare, fermarsi, che in parte sicuramente già è. Dovrà sapere che andando a Paestum non trovo solo i reperti, i templi, ma anche un posto gradevole da trascorrere qualche ora in pace, e anche informazioni, dove posso andare da lì, che altro posso fare nella pianura, nel Cilento, quindi fare del museo anche un nodo per il territorio. Ovviamente la situazione adesso, grazie alla riforma, cambierà. Adesso i musei avranno una loro autonomia contabile, che vuol dire che gran parte delle entrate da biglietti, prestiti, eventi andranno direttamente al museo, mentre il personale per il momento resta a carico del Ministero. Quindi dal punto di vista contabile ci troviamo in una situazione abbastanza positiva, perché avremmo le entrate, speriamo ovviamente di aumentarle tramite aumentare il numero di visitatori, fundraising, donazioni, progetti di eventi, eccetera, e quindi non vedo la situazione così drammatica. Adesso la riforma cambia non solo la figura del direttore, cambia un po' tutto. È tutto. Quanto dice il nuovo direttore del Parco Archeologico di Paestum, ma in Italia un approccio manageriale alla gestione delle imprese culturali fa ancora un po' fatica ad affermarsi, anche se importanti passi sono stati compiuti. Gabriella Belli, direttrice dei Musei Civici di Venezia. Il binomio conta tantissimo, diciamo che nel nostro paese è ancora timido. Anche se ci sono dei casi eccellenti come Diego della Valle e il Colosseo o tanti altri casi. Il binomio conta molto, a Venezia abbiamo anche la fortuna di poter avere dei mecenati che sono ancora legati all'UNESCO e che lavorano ancora molto bene, come il comitato per esempio francese per la salvaguardia di Venezia, che in questi anni ha supportato completamente il restauro di Palazzo Reale a Venezia. Quindi esistono diverse facce, non è solo il mecenate imprenditore, ma ci sono ancora molte associazioni totalmente coinvolte nel mondo della cultura e disponibili a fare insieme. Certo, non possiamo più pensare che ci siano le vecchie sponsorizzazioni, quelle davvero sono finite, ma credo a vantaggio di tutti. Oggi si costruisce insieme. Quindi secondo lei queste resistenze stanno un po' venendo meno? Ci sono un po' di resistenze ancora a considerare il ruolo proprio dell'impresa, cioè il museo come impresa? Portare la cultura d'impresa ormai è un must, non si può tornare indietro, è una strada senza ritorno. Oggi il tema della sostenibilità economica oltre che culturale di un museo è al centro dell'attenzione. Il mondo, rispetto a quello anche della mia generazione degli anni 80, quando dirigevamo le strutture e pensavamo che la cultura dovesse comunque essere per forza una spesa a carico del pubblico, beh, quel mondo è passato. Quindi oggi bisogna impegnarsi fortemente per riuscire a bilanciare naturalmente nella maniera più equilibrata l'aspetto economico con l'aspetto culturale. Questo è forse l'equilibrio più difficile da raggiungere, perché l'economia qualche volta può essere nemica della cultura e quindi questa economia deve diventare strumento della cultura, e in questo stiamo tutti lavorando, ma sono convinta che ormai la strada è segnata. James Bradburn, canadese, cittadinanza britannica e direttore della Pinacoteca di Brera, un altro dei 7 direttori stranieri dei 20 supermusei dotati di autonomia speciale, convinto che una gestione mista nella governance sia importante, con un privato che agisce nell'interesse pubblico secondo regole severe, precise e codici etici rigorosi. Io ho passato 8 anni a Palazzo Strozzi, che era la prima fondazione a parità pubblico e privata, che funzionava. Abbiamo mostrato che con questa collaborazione, questo coinvolgimento di privati in tutti i sensi, senza tradire una piccola parte della cultura, senza tradire nessuno e niente, abbiamo fatto un centro dinamico che adesso è best practice mondiale, è citato del Met, del Van Gogh, del MoMA. Quindi se possiamo fare questo e non abbiamo tradito nessuno, abbiamo le mostre all'altezza di tutte le attese, io non ho nessuna preoccupazione. Ci sono forse le persone che hanno dubbi che privati va a mangiare, non è vero, la robustità è sempre fatta in struttura. Io non parlo di privatizzare i beni culturali, questo sarebbe ridicolo. Questi beni sono beni pubblici, dovrebbe essere una partecipazione grande delle sue proprietarie, che è Stato e i cittadini italiani, però di ignorare tutto il settore privato in la gestione di questi beni mi sembra anche ridicolo. Io non vedo nessuna confusione, nessun problema. Cioè l'economia al servizio della cultura? No? Ma la cultura è un diritto nostro come cittadino. Io comincio sempre, non è una cosa di monetizzare, di fare più denaro, di fare turismo. Sono i risultati forse positivi. Cultura fa parte della nostra umanità. Però per valorizzare il nostro bene culturale dobbiamo gestirle bene in una maniera razionale, efficiente e visionaria. E questa è soltanto legata con una cosa sola, e questa è l'autonomia di realtà culturale. Ovviamente con la partecipazione all'un lato pubblico, perché questo appartiene a noi tutti, però anche privati, che dovrebbero anche prendere la loro responsabilità per il mondo in cui viviamo tutti insieme. Il responsabile. sostenibilità c'è chi l'ha presa, come Diego Della Valle, patron della TOZ, con il restauro del Colosseo cominciato nel 2013 e che durante gli Stati Generali della Cultura, manifestazione del Sole 24 Ore, ha lanciato una proposta per mettere la cultura al centro della politica economica. Noi siamo un gruppo italiano, fortunato, che ha i mezzi per farlo. Viviamo anche grazie al grande cappello che la parola Made in Italy mette anche su di noi, perché il Made in Italy è un fattore importante, la gente nel mondo ci crede, lo interpreta nel modo giusto, e perché in un momento difficile come era allora e come più o meno è ora, credevamo che bisognava proprio dare un po' il senso che le nostre imprese non possono fermarsi solo ad ottenere profitto, ad occupare le persone, ad avere successo, che è una cosa meravigliosa. Poi c'è un pezzo in più, che è quello che secondo me le imprese devono fare sempre di più: cosa socialmente restituiamo al paese, al territorio, alle persone, alle situazioni le più disagiate. Quindi questi sono i motivi per cui l'abbiamo fatto. Poi c'è uno più banale: io sono andato, ho visto il Colosseo da ragazzino, facevo la terza elementare, siamo partiti da Casetta d'Erta, un viaggio infinito in pullman con le scuole a vedere questa roba, è indimenticabile ovviamente, e passare oggi davanti al Colosseo e vederlo mano a mano ripulito, sempre più bello, devo dire che personalmente mi fa stare contento. Direi non è un atto eroico. Ho cercato con qualche altro amico, Renzo Rosso uno di questi, ho cercato di spronare certe cose e devo dire che ho trovato una disponibilità enorme. Rosso ha fatto il ponte di Rialto, cioè queste cose dimostra che se c'è un sistema che le vuol fare, le cose si possono fare. Comunque, guardando avanti, tra qualche mese il Colosseo viene restituito a Roma, all'Italia, al mondo, ordinato, pulito, altre cose cominciano. Non vorrei che finisse lì. È il momento di sedersi e di organizzare delle cose serie, credo che ne abbia anche voglia, di organizzare delle cose molto serie e vedere come si possa mettere a regime i restauri importanti finanziati dalle imprese private o pubbliche, che devono essere non solo quelli che mettono a disposizione il denaro, ma anche quelli, senza sovrastare la parte istituzionale, che controllano anche che queste cose vengano fatte con velocità e senza dispendio di denaro in modo strano. Io ho l'impressione che se si volesse fare una cosa di questo tipo, magari tra un viaggio e l'altro ci si siede a discutere con questa gente, nell'arco di 10 giorni lei può mettere in piedi, un mese, non di più, lei mette in piedi un piano di restauro di tutte le cose importanti di questo paese, finanziato con la possibilità, se la burocrazia accelera, di cominciare questi lavori a farli nell'arco del prossimo semestre, a cominciare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.